Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di politica, di pensiero politico e l'occasione ci è offerta dalla ripubblicazione di un libro, di un libretto per la verità, uscito per la prima volta nel 1995 che allora fece molto discutere. Il libro è Quadrare il cerchio, ieri e oggi, sono state aggiunte queste parole in questa nuova edizione, il sottotitolo è Benessere economico, coesione sociale, libertà politica. L'autore è Ralph Dahrendorf, uno dei più importanti pensatori della politica del nostro tempo, tedesco di nascita, inglese di adozione, la regina Elisabetta lo ha anche fatto Lord, la qualifica esatta di Dahrendorf è Lord Dahrendorf of Clare Market. Peccato che nella presentazione del volume da parte di La Terza non si precisi che Dahrendorf è uno dei maggiori pensatori liberali del nostro tempo e questo sarebbe stato utile anche per collocare il suo pensiero e la sua opera. Il libro è pubblicato dalla Terza, 132 pagine, 12 euro ed è tradotto da Rodolfo Rimi. Del volume soltanto 38 pagine sono quelle originarie del volumetto di Dahrendorf. Allora nel 1995 il politologo scrisse un testo molto conciso, come avete sentito, ma molto denso, tratto tra l'altro da una conferenza nel quale indicava con molta lungimiranza, si può dire adesso, i temi e le sfide poste dalla globalizzazione e alcune ricette liberali per fare fronte a queste sfide. Sfide che Dahrendorf sintetizzava nell'esigenza di rafforzare il benessere sociale, di cogliere quella che è la nuova natura del lavoro, di costruire un nuovo welfare, di difendere le autonomie, di puntare, di scommettere sulla responsabilità sociale dell'impresa e di costruire una maggiore responsabilità dei governi. L'operazione condotta adesso è di affiancare al testo originale di Dahrendorf una lettura aggiornata alla luce dei molti problemi che naturalmente sono sorti in questi ultimi anni e che hanno avuto poi una clamorosa conferma nella crisi finanziaria nella quale ancora ci troviamo. E questa risposta è affidata ad alcuni interventi di poche pagine da parte di alcuni studiosi di oggi. Riassume la questione nella quale ci troviamo oggi l'intervento conclusivo di Michele Salvati, il quale prende atto del fatto che il liberalismo, la democrazia liberale, come scrive, soffre molto in condizioni di reale scarsità di risorse, di intensi conflitti distributivi interni, di guerre che esigono forti mobilitazioni collettive e che si mischiano a nazionalismi esasperati, integralismi, scontri di civiltà. Insomma, aggiungo io, il liberalismo soffre in una condizione di grande tensione come quella nella quale ci troviamo. Finora, conclude Salvati, siamo riusciti a quadrare il cerchio, per usare l'espressione di Dahrendorf, persino in Italia. Finora la globalizzazione ha prodotto difficoltà e tensioni, ma nel nostro privilegiato angolo di mondo è risultata compatibile con condizioni di democrazia politica e con libertà individuale ampiamente garantite. E si chiede, le ultime parole di Salvati sono, fino a quando? E appunto questo libro di Dahrendorf ci rinvita a riflettere su questa prospettiva. Dahrendorf, dunque, un grande pensatore liberale. Affianco alla presentazione del suo libro, un libro che studia proprio l'argomento che sta molto a cuore a Dahrendorf, la libertà. E vi presento quindi La storia della libertà di Egidio Sterpa, un autore italiano, un famoso giornalista, è stato anche parlamentare liberale, ministro, parlamentare sia nella prima che nella seconda repubblica. Il libro è pubblicato da Rubbettino, 144 pagine, 15 euro. È un libro, questo, sintetico anch'esso, ma efficace per capire in 22 tappe come si sono consolidate nel tempo la teoria e la pratica della libertà. Una parola quest'ultima che entusiasma, mobilita, fa palpitare, ma che è anche foriera di equivoci e di strumentalizzazioni. E allora sentiamo l'autore per farci spiegare da lui qual è stata, in poche parole, la storia di questa traiettoria della libertà. Buongiorno Egidio Sterpa. Buongiorno. Senta, come mai una parola così apparentemente semplice come libertà ha dato vita in tanti secoli a tanti equivoci, come viene fuori anche dal suo libro? Perché? No, per esempio, la parola libertà, come lei sa e come io dico nel primo capitolo, nasce in Grecia, nella Grecia di Pericle, il periodo più auro, più bello dell'ellenismo. E però c'era una libertà per alcuni, ma c'era la schiavitù in Grecia. fu mutuata dai greci, dai romani. La parola libertas è latino. E un console romano eresse addirittura un tempio a Roma alla parola libertà, alla dea libertà. Ma a Roma la libertà non c'era, c'era, diciamolo francamente, c'era la schiavitù anche a Roma. La storia di Roma la conosciamo. Ci sono voluti secoli, diciamo pure millenni, perché questa parola si affermasse e soprattutto si affermasse il concetto di libertà. E in questa evoluzione lei sottolinea l'importanza particolare che hanno assunto le due rivoluzioni inglesi. Qual è stata l'eredità perdurante del contributo di questa rivoluzione? I filosofi, i pensatori inglesi sono stati determinanti. Basti pensare che le prime affermazioni di libertà dal punto di vista istituzionale sono inglesi e datano 1300. Pensate un po', nel 1300 in Inghilterra si parlava di Stato di diritto. Se ne parla oggi e anche oggi addirittura molti non sanno che cosa significa Stato di diritto. Non solo, ma in molti paesi non esiste. Spesso anche nei paesi democratici il concetto di Stato di diritto viene, come dire, interpretato malissimo. Quindi all'Inghilterra dobbiamo molto. Però io voglio dire una cosa, che la prima vera rivoluzione, io sono un laico, però la prima vera rivoluzione sociale, religiosa, ma sociale soprattutto, fu quella del cristianesimo, perché affermò la libertà degli individui, delle persone, affermò la lotta alla schiavitù, l'aiuto ai deboli, agli ultimi cosiddetti della società, e fu una rivoluzione importante perché un uomo chiamato Gesù Cristo, che non aveva frequentato nessuna scuola, con i suoi apostoli, che erano addirittura degli analfabeti, affermò questo concetto, questa nuova religione che fu veramente la prima rivoluzione sociale della storia. Poi ci sono state le due rivoluzioni, quella americana e quella francese, e c'è stato questo discorso bellissimo di Benjamin Constant nel 1819 all'Ateneo di Parigi, che è il più bel manifesto liberale che ci sia. E a Constant dobbiamo poi un'affermazione molto importante. Lui dice che ci sono state quattro rivoluzioni che hanno affermato la libertà. Parla, la prima rivoluzione, dice lui, è stata quella che ha smontato la teocrazia e quindi con una cultura che ne è derivata, quella che ha condannato la schiavitù, quella che ha eliminato la feudalità, quella che infine ha scalzato la nobiltà intesa come privilegio. Ecco come si è arrivati al concetto di libertà e all'affermazione della libertà, che per la verità non c'è in tutto il mondo. E alcune volte, anche in alcuni paesi democratici, il concetto di libertà è un po' mutilato. Bene, grazie a Egidio Sterpa. Lei ha risposto anche alla domanda che volevo farle, quello su un tema altrettanto attuale, il rapporto con il cristianesimo. A questo tema le dedica due capitoli nel suo libro, ne abbiamo parlato in questa intervista, e quindi ricordo che Egidio Sterpa ha scritto Storia della Libertà. Grazie, buona domenica. Grazie, arrivederci, grazie. Una testimonianza importante della forza che la domanda di libertà può determinare è il libro di Johanny Sanchez, Cuba Libre, vivere e scrivere a La Habana. È pubblicato da Rizzoli, 240 pagine, 17 euro, tradotto da Gordiano Lupi. Lei, l'autrice, è una giovane cubana, 34 anni, laureata in filologia, ma che non ha potuto dedicarsi all'attività accademica perché la sua tesi era sulle dittature nel Sud America e quindi è caduta subito in sospetto di anticastrismo. E allora la Sanchez sbarca in Lunari, attualmente facendo la guida turistica non ufficiale, ma è diventata famosa in tutto il mondo al punto da essere inserita dal Time nella lista delle 100 persone più importanti dell'anno, come organizzatrice, come responsabile di un blog dal quale trasmette notizie quotidiane sulla vita a Cuba. E di questa attività il libro appunto ci porta adesso la testimonianza scritta. Troviamo qua queste cronache accompagnate anche da un breve reportage fotografico sulle condizioni di Cuba. Troviamo dunque queste cronache dal cyberspazio che ci parlano di una Cuba misera e martoriata dall'oppressione e dal conformismo. Una Cuba nella quale anche i giovani rischiano di diventare prigionieri di una doppia morale, quella di aderire formalmente al regime, ma poi quella di farsi i propri comodi e cercare in tutti i modi di arricchirsi anche infrangendo la legge. Per esempio lo dimostra questa presentazione che fa la Sanchez di un suo coetaneo che campa facendo il cameriere in una piscina e che si arricchisce speculando sui liquori che dovrebbe servire. È ancora giovane, ma ha già capito che non importa quante volte si oltrepassa la linea dell'illegalità. La cosa importante è continuare ad applaudire. Ha conservato un impiego così redditizio grazie ad alcune parole d'ordine gridate durante un'azione politica e a quella volta che è uscito per reprimere un gruppetto controrivoluzionario. Le sue mani, che oggi rubano, ingannano i clienti e sottraggono mercanzie statali, firmarono, circa 6 anni fa, un emendamento costituzionale affinché il sistema fosse irreversibile. Per lui, se lo lasciano libero di continuare a riempirsi le tasche, il socialismo può durare anche in eterno. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi propongo adesso una serie di libri dedicati al tema sempre affascinante del viaggio. Il primo libro è un'antologia pubblicata da Robin, Viandanti e Viaggiatori, il libro è curato da Lilli Monfregola, 422 pagine, 15 euro. Troviamo qui 7 scrittori famosi, ci sono Lazzaro Papi, Arthur Schopenhauer, Bernard Berenson, August Strindberg, Herman Melville, William Thackeray e Norman Douglas. Alcuni di questi scrittori sono scrittori di viaggio, precisa la curatrice, nel senso che sono viaggiatori di professione che utilizzano la scrittura come materiale per le loro impressioni. Altri invece sono scrittori in viaggio che alla pagina affidano le loro considerazioni, i loro commenti, le loro reazioni ai luoghi che visitano, reazioni spesso anche stizzite e non sempre positive come quelle di Strindberg quando gira per l'Italia. E quindi troviamo l'India, l'Italia, appunto Parigi, la Grecia, attraverso queste 7 testimonianze letterarie spesso davvero sorprendenti. Uno dei più importanti libri di viaggio del Novecento è sicuramente quello che propone Adelphi, è un libro di Patrick Leigh Fermor, Tempo di regali, 356 pagine, 20 euro, tradotto da Giovanni Luciani. Il libro fu pubblicato nel 1977, quindi quando l'autore aveva già una 60 d'anni, rievocando un'impresa fatta a 19 anni, quando l'autore abbandona degli studi non molto amati e nel 1933 decide di andare a piedi da Londra fino a Costantinopoli. Questo è il primo volume che racconta questa avventura e in questi libri Fermor rievoca quell'avventura con gli occhi di un anziano che quindi può anche confrontare quello che provò da 18-19enne con quello che poi ha visto diventare quei luoghi. Non dimentichiamo che siamo nel 33, l'Europa non è ancora nel pieno, nel turbine della guerra e quindi in qualche misura Fermor vede per certi versi gli ultimi spunti, gli ultimi aspetti di un'Europa che di lì a poco sarebbe sparita. Per esempio, ascoltate queste righe su Praga, dalle quali risulta efficacemente questo contrasto, questo confronto tra l'Europa di prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Praga sembrava, e lo sembra ancora dopo aver visitato molte città rivali, non solo uno dei posti più belli del mondo, ma anche uno dei più insoliti. Paura, pietà, fervore, conflittualità e orgoglio, temperati da più miti impulsi di munificenza, cultura e douceur de vivre, vi avevano fatto sorgere un inconsueto assortimento di monumenti grandiosi e per nulla enigmatici. La città, tuttavia, era cosparsa di indizi più oscuri, più reticenti e meno facilmente decifrabili. C'erano momenti in cui tutti i dettagli sembravano la punta delle dita di inspiegabili fantasmi. Questa sensazione ricorrente e un po' sinistra era rafforzata dalla convinzione che di tutte le mie tappe, Praga era il luogo al quale la parola Mitteleuropea, con tutte le sue implicazioni, si addiceva di più. Ho pensato spesso a Praga in seguito, e quando giunsero i tempi funesti, a colorare le mie riflessioni furono compassione, rabbia e il senso di colpa che il fato dell'Europa dell'Est aveva giustamente suscitato nell'Occidente. La breve conoscenza in tempi più felici aveva lasciato in me la visione di una città concreta da contrapporre alle ipotetiche metamorfosi, e ciò fece apparire gli eventi successivi più immediati e insieme più difficili da afferrare. Nel racconto delle vicissitudini di una persona estranea, nulla ci sorprende davvero. Sono i drammi lontani degli amici, i più duri da evocare. Andiamo un po' indietro nel tempo e un po' a sud nello spazio con un celebre scrittore francese, Pierre Loti, che in realtà si chiamava Louis-Marie Julien Viau, che prese questo nom de plume proprio in onore di un fiore tropicale che aveva apprezzato nel corso dei suoi viaggi. Visse tra il 1850 e il 1923, cominciò la sua attività come ufficiale di marina e poi si dedicò alla scrittura, nella quale riverberò la sua passione per le civiltà lontane, in particolare per l'Oriente. Vi propongo di Loti un affascinante reportage dall'Egitto, Il Nilo e la Sfinge. È un libro che quest'anno fa 100 anni, è stato scritto nel 1909 ed è pubblicato adesso da Excelsior 1881, 292 pagine, 14,50 euro, tradotto da Alessandro Gallone. Ritroviamo qui anche delle immagini accanto ai testi sull'Egitto, il Cairo e il Nilo, appunto di 100 anni fa. Di questo Egitto Loti ci dà una descrizione ben diversa naturalmente dall'Egitto turistico e affollato di oggi. Quella è un'epoca che non porta in Egitto torme di turisti, ma è un Egitto silenzioso, quello che si presenta da questo libro, capace ancora di trasmettere emozioni e sorprese anche negli atteggiamenti verso l'occidentale, nei quali troviamo anticipati molti tratti del dibattito attuale. Loti, per esempio, a un certo punto visita la moschea nella quale ha sede un importante centro di cultura islamica, Al-Azhar, e si incontra col magnifico rettore di questo centro. Lo scrittore è accompagnato da un musulmano che ormai francesizzato, il quale inizia col rettore un elegante e raffinato dibattito teologico, e questo attualmente stupisce molto Loti, il quale reagisce con queste parole: come diverso mi appare ora il mio amico Mustafa, che ho conosciuto così francese in Francia, mentre ora mi si rivela musulmano nel più profondo dell'anima. E del resto lo stesso si può dire della maggior parte degli orientali, che, se conosciuti fra noi, sembrano più parigini dei parigini stessi. Il loro modernismo non è che una vernice superficiale, entro di sé, nell'intimo della loro coscienza, conservano intatta l'essenza dell'Islam. E ci si spiega senza difficoltà come lo spettacolo dei nostri tormenti, delle nostre pene, della nostra disperazione, il retaggio del nostro eterno rinnovamento, li faccia riflettere e li spinga a rinchiudersi in se stessi, tendendo alla tranquilla meditazione che era propria dei loro antenati. Fin qui Loti, come vedete, da 100 anni. Molti tratti del dibattito con il mondo musulmano non sono cambiati. E a questo punto... Il confettino. Vi propongo oggi due libri destinati, il primo a bambini, il secondo a lettori un po' più grandicelli, e che sono dedicati a scoprire una grande figura del pensiero occidentale di cui pochi giorni fa, il 21 aprile, abbiamo ricordato il 900° anniversario della morte, Anselmo da Aosta. Ai più piccoli è dedicato a Sant'Anselmo, un amico da scoprire, curato dal monastero benedettino Regina Pacis di Saint-Oyen, illustrato da Fabrizio Zubani e pubblicato dalle Paoline, costa 6 euro. Ai ragazzi invece è destinato Il tesoro di Anselmo di Manuela Noel Lucianaz, illustrato da Fabrizio Zubani, sempre pubblicato dalle Paoline, 98 pagine, 15 euro. In quest'ultimo libro Alberto, un ragazzo nostro contemporaneo, si imbatte in Sant'Anselmo, che lo accompagnerà indirettamente in un'avventura che permette al ragazzo di ripiombare nella vita non meno avventurosa del grande santo. Anche i genitori potranno riscoprire questa grande figura, un autentico gigante della filosofia occidentale. La Chiesa chiama Sant'Anselmo Doctor Magnificus. Il cardinale Biffi, aprendo le celebrazioni del santo ad Aosta, l'ha definito formidabile ragionatore. Per chi appunto è appassionato di questa figura, segnalo un libro che rende la vita appassionante e fruttuosa di questo monaco sotto forma narrativa. E questo libro ci fa accostare in maniera appassionante non soltanto alla sua figura, ma anche alle situazioni e alle realtà nelle quali egli si trovò immerso. Ricordiamo che Sant'Anselmo nacque da Aosta, ma poi andò per molti anni a fare l'abate in Normandia per concludere la sua carriera, per così dire, come arcivescovo di Canterbury. In queste vesti fu protagonista di molte delle vicende di quegli anni, in particolare delle lotte tra il potere civile e il potere religioso. Il libro che vi segnalo è quello di Tersilia Gatto Chanu, Anselmo d'Aosta, ritratto a più voci, pubblicato da San Paolo, 556 pagine, 26 euro. Restiamo sempre per gli adulti dalle parti dei grandi santi con San Tommaso d'Aquino, di 120 anni più giovane di Sant'Anselmo, che ritroviamo nel libro di un grande scrittore inglese che fu anche un grande convertito alla Chiesa Cattolica, Gilbert Keith Chesterton, famoso anche come creatore letterario di Padre Brown. Di Chesterton viene pubblicato San Tommaso d'Aquino, pubblicato da Lindau, 202 pagine, 16,50 euro, tradotto da Giovanna Caputo. Come osserva nella prefazione il vescovo di San Marino e Montefeltro, il Monsignor Luigi Negri, pochi libri come questo spiegano quale sia la forza del cristianesimo dal punto di vista del suo impatto sulla vita dell'uomo e sulla storia dell'umanità. Chesterton scrisse questo libro su San Tommaso in parallelo, per così dire, con la vita di San Francesco, perché secondo lui questi due santi hanno riportato Dio in terra. Ed è interessante riaccostarci a questo autentico titano del pensiero filosofico nella forma molto discorsiva e piacevole di Chesterton, che ci permette anche di cogliere gli spunti e le sollecitazioni che illuminano il percorso del grande scrittore inglese. Emergono per esempio da questo libro su San Tommaso le sue polemiche contro il capitalismo, contro il darwinismo, contro l'ateismo, e quindi leggere e rileggere San Tommaso d'Aquino significa anche leggere il pensiero di Chesterton. Prima di salutarci segnalo agli appassionati di libri antichi una nuova iniziativa che si svolgerà domenica prossima, domenica 10 maggio a Milano, in un'area vicinissima a Piazza Duomo, Piazza e Via dei Mercanti. 120 librai, di cui 20 stranieri, danno vita alla prima iniziativa di questo genere, cioè una mostra all'aperto di libri antichi alla quale partecipano anche dei librai stranieri. Si chiama Mare Magnum Librorum ed è appunto la prima mostra mercato all'aperto internazionale. E ci sono naturalmente tante curiosità che vengono dagli espositori, per esempio il libraio di Milano Malavasi espone la scelta di curiosità di opere letterarie inedite e rare pubblicate a Bologna nel 1892. Si tratta di 200 piccoli opuscoli pubblicati in 202 esemplari numerati, che sono una delle iniziative più curiose dell'editoria dell'Ottocento. E con questo ringrazio Daniele Casagrande, Vittoria Mussini in redazione, Pietro Accorte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Passo la linea a Respiro, a voi auguro buona domenica e un appuntamento la settimana prossima.